von deutschen Italienisten und von italienischen Germanisten jetzt im historisch-politologischen Sinne Grazie zusammenzubringen. So, damit ist also dieser für den weiteren Verlauf hoffentlich wichtige Akt der Vorstellung vorüber und ora passo la presidenza al collega italiano. Grazie. Presidenza bilaterale questa. Soltanto alcune informazioni, perché il mio compito, almeno in questa fase, è soltanto quello di presentare il tema di questo pomeriggio. C'è un piccolo cambiamento di programma. Avremmo deciso di sostituire alla relazione prevista del professor Warnier aspetti della politica ecclesiastica della sinistra, come è indicato nel programma, sostituire a questo intervento quello del professor Giorgio Chiosso, che è dedicato alla questione scolastica. Questo per il fatto che nella storia d'Italia dopo l'unificazione e nell'ambito più specifico delle relazioni tra società, politica, Stato e Chiesa, mondo cattolico, la scuola occupa in Italia una posizione centrale. La occupa in senso generale, perché la questione scolastica è per molti versi il fulcro di un processo di unificazione che non è soltanto un problema politico, ma è per molti versi un problema culturale di unificazione nazionale nel senso della creazione della nazione. È inutile, credo, ricordare la celebre affermazione di D'Azeglio che disse: ora l'Italia è fatta, restano da fare gli italiani. Molti sostengono che restano ancora nel 1990 da fare gli italiani, forse si faranno prima gli europei degli italiani, ma questo è un problema relativamente laterale. Ciò che a noi importa è che la scuola, da questo punto di vista, è vista da parte dell'autorità pubblica, dallo Stato, come lo strumento privilegiato in questo senso, tenuto conto soprattutto delle enormi differenze di natura regionale che si presentano in Italia al momento delle unificazioni, che sono differenze superiori rispetto alle differenze di altre aree geografiche e della stessa Germania, dove pure le differenze erano notevoli, sia differenze di sviluppo e quindi di livello di vita, di sviluppo economico, ma differenze culturali, linguistiche. Voi certamente sapete, gli amici non italiani sanno che in Italia la lingua italiana restò per molto tempo, e in parte è ancora oggi, certamente in minor misura, una lingua di strati sociali determinati, non è la lingua parlata, e nel 1860-70 non era la lingua parlata dalle popolazioni, era una lingua utilizzata da relativamente ristrette ceti sociali e con determinate funzioni. Quindi soltanto il problema linguistico è un problema che investe direttamente tutta la struttura scolastica. Ma per quanto riguarda più direttamente il tema del Kulturkampf, il problema della scuola è particolarmente delicato nella situazione italiana, in quanto la tradizione di quasi tutti gli stati pre-unitari, precedenti all'unità, era che la scuola fosse in larghissima misura nelle mani del clero, sia degli ordini religiosi, sia del clero secolare. Questo per vari motivi che verranno spiegati da Giorgio Chiosso, che è uno storico delle istituzioni educative e delle istituzioni scolastiche italiane, che ha presentato un riassunto del suo intervento, e sul quale naturalmente mi riservo semmai di intervenire poi in fase di commento e di discussione, ma accenno soltanto a questo problema. Do soltanto questa indicazione per rilevare rimarcare il fatto che sotto molti riguardi, pur non essendo un problema unicamente politico o di legislazione scolastica, anche se ci sono problemi di legislazione, di leggi scolastiche, di unificazione del sistema scolastico che sono altrettanto importanti, pur non essendo soltanto una questione di legislazione scolastica o di politica scolastica, la scuola investe, riguarda aspetti complessivi dell'educazione dei cittadini in relazione poi ai valori che sono quelli che da un lato lo Stato nazionale, il nuovo Stato nazionale che utilizza la scuola anche per far filtrare questi valori e dall'altra parte la Chiesa tendono a presentare come propri e per certi versi a contrapporre. Il problema quindi è se vi sia o non vi sia fusione tra questi valori, se il personale che è addetto allo svolgimento delle funzioni scolastiche, particolarmente il personale insegnante, sia di estrazione laica, statale, ovvero continui ad essere, anche per la difficoltà di un ricambio di personale docente, di provenienza ecclesiastica, e infine come tutto questo insieme di questioni si è riflesso più in generale sulle relazioni tra le istituzioni statali, che ricordo ha in gran parte nelle sue mani il sistema scolastico, a differenza di altre realtà europee. Istanza sull'importanza della ginnastica e del lavoro manuale a scuola furono frutto anche dell'osservazione della pratica educativa delle scuole tedesche. Una puntuale indagine su che cosa significò il modello scolastico prussiano da noi, ma certo soprattutto tra pedagogisti e uomini di scuola, ma più in generale nell'opinione pubblica colta, potrebbe sicuramente fornire utili elementi per una con miglior comprensione di talune fenomeni e di certe tendenze. L'esempio tedesco, congiunto alla grande emozione causata dai dati del censimento del 1871 relativi all'analfabetismo, da cui risultava che gli italiani certificati come analfabeti erano il 73% della popolazione, cioè 3 su 4, pari a circa 17 milioni, ebbe certamente la sua parte nell'accelerare il dibattito sull'istruzione obbligatoria, nonché sulla decisione di introdurre l'insegnamento della ginnastica nelle scuole di ogni ordine e grado, come il ministro De Sanctis dichiarava alla Camera proprio introducendo il dibattito sulla ginnastica. E qui, avvicinandoci alla ginnastica, passiamo alla terza, al terzo intreccio, questione ecclesiastica, questione, abbiamo detto, elettorale, la questione militare. L'insegnamento della ginnastica aveva già un po' di tradizione in Italia, risalendo ad esempio alle esperienze compiute nel Piemonte Carlo Albertino, dove erano sorte numerose società di ginnastica e dove ne era stata riconosciuta l'importanza educativa da quel gruppo di educatori pedagogisti che avevano promosso un certo rinnovamento della scuola piemontese intorno al 1840 e anni successivi. Gli uomini di scuola che si erano occupati di questo problema muovevano dall'esigenza di un armonico sviluppo tra educazione intellettuale, morale e fisica, senza immediate preoccupazioni di tipo civico-militare, che invece erano fatte proprie dalle gerarchie militari che speravano di potersi avvalere nell'addestramento delle reclute di quanto già appreso nella scuola, sia negli ambienti politici, ove le buone prove dell'esercito sabaudo nella seconda guerra d'indipendenza, che contrastavano così vistosamente con le disfatte del 66, erano anche fatte risalire ad una preparazione militare che si era potuta innestare su una larga pratica fisico-educativa ed una scuola oramai, almeno nelle intenzioni, abbastanza diffusa e frequentata. Negli anni 70 fu esattamente questo filone di pensiero a riproporsi, affermando che uno dei fini costitutivi dell'educazione scolastica doveva essere una religione della patria, sentita e vissuta, tanto sul piano dei grandi ideali, quanto più concretamente interpretata anche come preparazione del cittadino soldato, impostazione che ben si armonizzava con quella celebrazione della Roma antica e il costituirsi del più avventuroso mito della Terza Italia, che sono tratti così caratteristici della cultura italiana all'indomani della breccia di Porta Pia. Lo stesso De Sanctis, persona certamente non tentata da estremizzazioni nazionalistiche, è preoccupato di formare, come lui diceva, la tempra degli italiani, che da Machiavelli in poi gli sembrava essere venuta meno, rassicurava la Camera durante il dibattito per l'introduzione della ginnastica nelle scuole di averne concertata l'introduzione col ministro della guerra, poiché ho studiato, diceva, la questione in tutta la sua ampiezza. Un indirizzo militare non solamente io l'accetto, ma ringrazio la Commissione, che aveva esaminato il progetto di legge, di aver ancora sviluppato le idee che io ho voluto, così in generale, indicare nel mio disegno di legge. I programmi che poi diedero operatività al provvedimento, e non a caso dovuto a Felice Valletti, uno degli esponenti della scuola fisico-educativa piemontese, documentavano lo stretto rapporto tra ginnastica e forza militare. E se lo scopo primo della ginnastica veniva riconosciuto nel potenziare l'educazione fisica intesa come parte dell'educazione dell'uomo, non di meno, affermavano le istruzioni, l'altro scopo della ginnastica è formare cittadini atti a difendere il proprio paese, cioè dei soldati. Purtroppo la forza, si leggeva ancora nei programmi, governa ancora il mondo. E l'indipendenza delle nazioni riposa in gran parte sulla possibilità di opporre forza a forza, senza soldati, senza virtù militari, con la sola intelligenza e con la sola astuzia politica non si difende a lungo l'indipendenza. E se nelle scuole elementari lo scopo militare non doveva comportare applicazione pratica alcuna, nelle scuole secondarie il programma era accompagnato anche da una parte specificamente indicata come insegnamento militare. Le vicende della ginnastica, su cui mi soffermo un po' più a lungo perché forse sono un po' meno note, non furono che uno dei segnali espressi dalla classe dirigente per associare istruzione del popolo e servizio militare. Questo fenomeno si manifestò in due forme egualmente indicativo. D'un lato l'esercito fu concepito anche come luogo educativo, non solo in ordine alla disciplina e dei valori nazionali e patriottici, ma anche in termini di istruzione vera e propria, oggi diremmo di alfabetizzazione, con la moltiplicazione delle scuole reggimentali nelle quali sergenti e caporali alfabetizzati provvedevano a colmare le più vistose lacune delle reclute. E fino al 1880 i militari di leva venivano trattenuti sotto le armi finché non avessero imparato a leggere e a scrivere. Dopo tale data, per ragioni di bilancio, furono congedati qualunque fosse il loro grado di istruzione. Per un altro verso si cercò ancora di agire sulla scuola, come nel caso di un progetto elaborato dal ministro Baccelli nell'81, più volte ripreso nel corso della sua prolungata permanenza al ministero. Mai andato in porto, è vero, ma è ugualmente utile per cogliere tendenze ed orientamenti. Di fronte alle manifeste lacune della legge del 77, quella che prevedeva l'obbligatorietà della scuola elementare per almeno un triennio dai 6 ai 9 anni, e che ben presto manifestò essere ben poca cosa per assicurare un minimo di alfabetizzazione per tutta la vita, il Baccelli avanzò la proposta di creare un doppio ciclo di scuola elementare. Il primo doveva interessare l'età dell'infanzia e della fanciullezza, e quindi dai 6 ai 9-10 anni. Il secondo occuparsi invece della giovinezza, 16-19 anni, per ridestare le cognizioni acquistate e promuovere una ginnastica militare generalizzata, affidata di preferenza a sottufficiali dell'esercito. Di fronte al crescente dinamismo delle potenze europee e alla volontà anche dell'Italia di rafforzare la propria posizione internazionale, l'impiego della ginnastica nella scuola, nelle intenzioni del Baccelli e di quanti sostennero la sua proposta, cominciava a tingersi di venature più esplicitamente militaristiche, anticipando certe successive teorizzazioni sul ruolo della scuola e della ginnastica e della forza militare, che avrebbero avuto in seguito rigorose curvature imperialiste. Passo ora alla seconda parte della mia comunicazione, venendo ad esaminare più strettamente gli apporti degli studi pedagogici, che in questi ultimi 20 anni, più che impegnarsi in un improbabile recupero della pedagogia psicologica ed evoluzionistica del positivismo che in Italia ebbe corso dal 1865-66 per almeno un trentennio abbondante, hanno questi studi cercato di coglierne le motivazioni, sottolineando concordemente la funzionalità dell'elaborazione pedagogica rispetto al progetto di società organica borghese di quegli anni. Tale funzionalità si manifestò in modo specifico nell'affermazione della categoria educativa dell'abitudine. Educare, per i pedagogisti positivisti, significava far acquisire abitudini buone in vista di un adattamento individuale e sociale. La pedagogia diventava in tal modo una sorta di forma scientifica della trasformazione della società. L'Angiulli, uno degli autori di pedagogia più noto in quegli anni, annotava come la rivoluzione era delegata alla pedagogia e alla scuola nella misura in cui queste sapevano ristrutturarsi in modo scientifico. Questo aspetto del rapporto politica-pedagogia mi pare sia un po' sfuggito all'analisi e alla valutazione degli storici politici e anche di quelli che hanno affrontato il tema della scuola sul versante sociale, probabilmente a causa di una certa impermeabilità tra indagini svolte in ambiti disciplinari diversi. Si tratta invece, a mio avviso, di un elemento di notevoli conseguenze. Una volta costituitasi in scienza sociale, la pedagogia si presentò in grado di fornire giustificazioni e soprattutto strumenti operativi nuovi e più complessi e sofisticati di quelli di cui disponeva la pedagogia ancora filosofica degli anni precedenti, che pur aveva contribuito a perfezionare la concezione moderna dell'infanzia e della fanciullezza attraverso personalità di grande rilievo, di cui ricorderò solo Pestalozzi, Girard, Aporti, Lambruschi. I programmi per la scuola elementare del 1888 rappresentano, da questo punto di vista, un importante documento per cogliere le forme attraverso cui la cultura educativa positivista si pose come tramite per l'integrazione di quei ceti popolari nella società liberale e per la cui graduale e prudente emancipazione operavano gli uomini della sinistra. La cultura scolastica, affermavano i programmi dell'88, non poteva accontentarsi dei soli rudimenti iniziali del sapere, ma si doveva costituire nella più complessa forma dell'educazione fisica, intellettuale e morale. Quanto al metodo di insegnamento, esso doveva acquisire carattere di scientificità e non più affidato all'empiria degli insegnanti, basandosi sulla osservazione, sulla riflessione e sull'accertamento sperimentale. Alla prassi largamente diffusa della memorizzazione, quale base dell'apprendimento, si doveva sostituire l'osservazione dei fatti, dei fenomeni, degli oggetti, per giungere alla acquisizione di idee chiare basate su conoscenze accertate. Sul piano infine della educazione, i programmi promuovevano l'acquisizione di abitudini e comportamenti i cui valori cardini erano quelli dell'ordine sociale, della concordia, della laboriosità, della sincerità, del rispetto, dell'ubbidienza, in un orizzonte etico laico, ma senza manifestazioni estreme di scarso rispetto per i valori religiosi. Lo scopo era quello di formare gente onesta, come dicevano i programmi, e leggo testualmente, solida, tranquilla, portata a dare ognuno il suo, a rispettare i diritti del prossimo, ad astenersi da soperchierie, da malignità, da invidie, e nei limiti delle proprie possibilità doveva cercare di essere utile e giovare, così che l'istruzione non fosse fine a se stessa, o peggio, potesse rivoltarsi contro l'ordine costituito, ma fosse convenientemente educata, e cioè associata ad una buona socializzazione. Per poter avere la speranza che un obiettivo così complesso si attuasse nella realtà, occorreva poter disporre di maestri particolarmente bravi e motivati, capaci di porsi come cerniera tra la classe dirigente e i ceti popolari. Non a caso, un ampio settore di studi in questi anni si è soffermato proprio ad indagare chi era, qual era la preparazione, qual era la collocazione sociale del maestro degli ultimi 20-30 anni del secolo. Diciamo subito che il maestro ereditato dalla legge Casati era in generale o un prete o una donna. Nel 1863 quasi l'80% dei maestri erano rappresentati da queste due categorie, il 31% di ecclesiastici e il 47% di donne. Un'altra annotazione importante, soltanto in Piemonte, nel Lombardo-Veneto e parzialmente in Toscana, negli anni precedenti l'unità si era avvertita l'esigenza di dare un minimo di preparazione a chi intendeva avviarsi verso la professione magistrale. Tanto è vero che, nonostante fosse stata introdotta nella legislazione del 59 la scuola normale, cioè una scuola appositamente prevista per la formazione dei maestri, alla fine degli anni 60 meno del 15% di coloro i quali si presentavano agli esami per ottenere la patente aveva seguito un corso regolare di studi. Che significa che la gran parte dei maestri o era ereditata dalla situazione precedente o aveva una formazione di fortuna, provvisoria. Il problema dei maestri rappresenta un strategico, a mio giudizio, argomento storiografico, perché nella figura del maestro si congiungono infatti istanze proprie della mentalità e della cultura politica e le competenze pedagogiche. Non solo, ma attraverso i maestri è anche possibile ricostruire molti aspetti della storia quotidiana della scuola, la quale spesso ci dice in che misura e se i progetti politici si sono attuati. Nonché la storia del maestro consente di raccogliere significative tracce relative ai percorsi di alfabetizzazione e più in generale alla condizione dei ceti subalterni. Quali sono i risultati degli studi condotti negli ultimi tempi sui maestri e in particolare sui maestri dopo il 1870? Primo, l'interesse della classe politica per i problemi della categoria magistrale si accompagna in generale al proposito di incrementarne qualitativamente e di migliorare, di incrementare quantitativamente e di migliorare qualitativamente la scuola. I provvedimenti legislativi per il personale di norma sono posteriori e spesso di gran lunga rispetto a quelli di riforma o revisione scolastica. Secondo, il graduale e prudente miglioramento della condizione magistrale costituisce un fattore importante per trasformare in professione un'attività che spesso era percepita in termini secondari o assistenziali e di beneficenza. Si assiste in questo passaggio dall'attività un po' occasionale alla professione una crescita del personale laico, la cui percentuale si aggirava sul 60-70% negli anni 60 e diventa intorno all'80% negli anni 80. Ma questa crescita del personale laico non si svolge tuttavia a danno del personale ecclesiastico, nel senso che non ci sono forme di espulsione del personale religioso come è accaduto in Francia. Da noi il personale ecclesiastico, ad esempio, in cifre assolute era circa 9.000 unità e restano, direi, costanti queste 9.000 unità. Ma un'altra cosa curiosa, l'incremento del personale laico è soprattutto personale femminile. quasi a essere preoccupati di una troppo rapida immissione del personale laico maschile, che si temeva potesse essere più facilmente influenzato dalle correnti politiche più estreme. Terzo, sotto il profilo retributivo si verifica la graduale eliminazione degli stipendi più miseri. Nel suo studio sulle condizioni economiche e sullo status sociale del maestro, Vigo ha confrontato le medie provinciali degli stipendi negli anni 63 e 78, 1863 e 1878, giungendo a dimostrare un generale incremento retributivo anche dunque anche prima degli importanti aumenti sanciti dalla politica scolastica della sinistra. Ma nonostante questi miglioramenti, la retribuzione del maestro e di riflesso la sua posizione sociale restava in media di livello medio-basso, non discostandosi molto da quella di un buon operaio o di un artigiano, ed attestandosi invece ben al di sotto delle medie retributive degli impiegati pubblici, salvo i casi dei maestri delle grandi città, la cui condizione in generale risultava migliore. Quarto punto, se si guarda la preparazione pedagogica e professionale in genere, si verifica tra gli anni 80 e 90 un notevole ricambio per ragioni generazionali. I vecchi insegnanti lasciano il posto a giovani colleghi che in genere hanno seguito il corso triennale della scuola normale, poco a poco questa scuola comincia a essere frequentata, simpatizzano per le tendenze laiche e positivistiche e si impegnano in un certo rinnovamento metodologico ispirato alle nuove correnti pedagogiche. Ma molti elementi suggeriscono di non sopravvalutare le pur molte novità di contenuti e di linguaggio che si possono ad esempio leggere sui periodici magistrali. I programmi della scuola normale, cioè della scuola di preparazione dei maestri, sono poca cosa, poco più di un corso post-elementare, arricchito da qualche esercitazione didattica che non sempre si poteva fare perché mancavano le classi adatte. Non c'è allora da stupirsi se i programmi dell'88, quelli che abbiamo appena ricordati, furono molto contestati dai maestri che li giudicavano troppo difficili e non in grado di applicarli in modo conveniente. E la loro protesta fu riconosciuta così valida che 6 anni dopo furono ridimensionati, pur restando sostanzialmente immutata la cornice pedagogica. Se nel considerare la questione scolastica dopo il 1870, nel ventennio tra il 70 e il 90, si guarda anche a questi apporti, il quadro che d'insieme che ne scaturisce appare molto meno omogeneo e monolitico di quello che si potrebbe ritenere fermandosi al dibattito politico o alla retorica del maestro apostolo del progresso, cantato da De Amicis nei suoi vari romanzi magistrali, del resto così tipica caratteristica del periodo. I maestri aumentano, certo, le loro condizioni di vita migliorano, ma la classe politica si muove in loro favore con molto ritardo, quasi costretta dalla necessità di un minimo di coerenza tra enunciati di principio e dichiarata volontà di incrementare alfabetizzazione e scolarizzazione. La professione magistrale si laicizza, ma nel contempo si femminilizza. Lo stipendio della maestra era inferiore a quello degli uomini, la maestra era disposta ad accettare sedi di servizio molto scomode, dove non di rado si formava una famiglia e assumeva un ruolo di rispetto nella vita della comunità. La maestra era meno permeabile alla propaganda dei partiti dell'estrema, che, come ben risaputo e come ben dimostrato, esercitavano un certo fascino sui maestri. E se alla maestra mancavano i muscoli per quella educazione ginnica che si voleva anche un po' preparatoria agli esercizi militari, si reputava che la sua naturale vocazione materna potesse ugualmente dare efficaci risultati in ordine all'educazione dei buoni sentimenti e quindi per quell'educazione che si riteneva indissociabile dall'istruzione. Alla terza parte dello schema sono dedicate le battute conclusive di questa mia introduzione, che vedo essere già andato un po' al di là del tempo che mi era stato suggerito, ma credo in 10 minuti di riuscire a chiudere. Il discorso sui maestri ci ha anche introdotto in un altro settore che ha avuto e che ha tuttora una certa fortuna nella produzione socio-pedagogica italiana. Intendo riferirmi a quegli studi che, per lo più declinati sul versante sociologico o degli studi storico-sociali, hanno offerto nuovi apporti alla storia della scuola italiana, ad esempio sul piano della ricostruzione della storia locale dell'istruzione. Si tratta oramai di un discreto numero di lavori che hanno offerto ricostruzione, ad esempio, per la Sicilia, per varie aree italiane, la Sicilia, la Romagna, la Puglia, la Val d'Aosta, ancora un po' difforme e discontinua, ma dai quali comunque emergono alcune linee di orientamento che mi paiono piuttosto interessanti. Il primo dato che emerge da questi studi riguarda la complessità e la difficoltà di applicazione della legislazione nazionale, a cominciare da quella sull'istruzione obbligatoria. Si scopre come, ad esempio, non ho qui il tempo di documentarlo, ma lo farò nel testo scritto, come ad esempio la legge stessa, prevedendo alcune eccezioni per l'estensione dell'istruzione obbligatoria, ma non avendo sufficientemente chiara la conformazione della rete dei nuclei abitati, finisse per legittimare che un gran numero di alunni non frequentassero la scuola. Un altro punto molto importante che emerge da questi studi sono i contrasti tra centro e periferia. La figura del regio ispettore scolastico e le difficoltà con le autorità locali. Non solo si parlavano due lingue perché, come diceva Tragnello, l'italiano non era ancora, direi, acquisito come lingua omogenea, ma si parlavano due lingue da un punto di vista culturale, da un punto di vista della diversa mentalità di questi ispettori, che per lo più di origine, e qui sarebbe interessante fare anche un'analisi sulla loro formazione, ma per quello che ho potuto io ricostruire, per lo più di origine toscana o piemontese o lombarda, e quindi arrivavano ad esempio nelle regioni del centro-sud con un approccio evidentemente molto diversificato. Un terzo punto che emerge da questi studi è la crescita differenziata della scolarizzazione, c'è qualche dato anche nella scheda, ma è una crescita differenziata che, da un punto di vista molto superficiale, non fa che ribadire cose già risapute: un nord più alfabetizzato e un sud meno alfabetizzato, ma le indagini regionali ci dimostrano che in ciascuna regione c'è un sud e un nord, cioè ci sono regioni, nella stessa, ad esempio in mente la Sicilia, zone che non sono molto distanti da un'alfabetizzazione, da una scolarizzazione del centro-nord e altre aree molto più deboli. Non solo, ma i contrasti che emergono tra certe forme scolastiche locali che avevano una loro ben forte tradizione radicata nel tessuto quotidiano, ad esempio il libero insegnamento nel napoletano, non solo a livello di scuole del Puoti e scuole secondarie, ma anche proprio nella tradizione scolastica popolare, che invece viene sottovalutata e viene con una logica un po' centralistica annientata, ma la gente non manda i figli nelle scuole comunali, non ritenendole sufficientemente affidabili. Ecco, queste sono alcune delle indicazioni che emergono, ho cercato di riassumere per guadagnare qualche tempo. Un altro filone di ricerca che conferma questi dati è ad esempio quello che ho intrapreso da qualche tempo sui giornali scolastici, cioè quella vasta periodistica che si rivolge ai maestri, scritta spesso da maestri per i maestri. L'analisi di questa enorme quantità di materiali, ne abbiamo censiti tra il 1859 e il 1900 più di 450, permette di ripercorrere altre complesse e tortuose strade. Ad esempio, da questi giornali emerge in modo evidentissimo che ci sono diverse storie pedagogiche locali, non solo diverse prassi scolastiche, ma proprio diverse storie pedagogiche che rendono, influenzano in maniera differenziata lo sviluppo della scuola nelle realtà locali. Ma da questa stessa stampa emerge in modo evidente anche la complessità del fenomeno associativo, che è un altro dato su cui riflettere, che si sviluppa in forme localistiche estremamente frammentate. Si può dire che ogni piccolo centro aveva la sua società di mutuo soccorso dei maestri, la sua associazione magistrale, che se d'un lato è riconducibile all'esigenza di restare aderenti ai problemi locali, riflette anche la difficoltà di impostare i problemi in una chiave più ampia, come del resto dimostrano i ricorrenti tentativi di creare un organismo associativo dei maestri a livello nazionale, che sarà possibile solo agli inizi del nuovo secolo. Non ho qui, e mi spiace non avere il tempo, non ho qui il tempo di esaminare un altro dato secondo me molto interessante: come anche la campagna di laicizzazione condotta in forme diverse dopo il 1870 non abbia quei risultati nella scuola elementare di dereligionizzazione della scuola. Dalle statistiche pubblicate sulla frequenza dell'insegnamento facoltativo della religione emerge che più dei 2/3 dei bambini che frequentavano la scuola ricevevano regolarmente l'insegnamento della religione. Non solo, ma che in alcune regioni, in generale quelle a più alto tasso di scolarizzazione, la frequenza dell'insegnamento facoltativo di religione era dell'ordine del 95%, e che soltanto nelle regioni dove la scolarizzazione era più in difficoltà, anche di conseguenza l'insegnamento facoltativo della religione era quasi portato a traino da questa insufficiente scolarizzazione, e questa di conseguenza anche la frequenza dell'ora facoltativa di religione era inferiore. Gli sforzi, cerco di dare una piccola valutazione conclusiva, gli sforzi che la classe dirigente della sinistra compie negli ultimi decenni del secolo per creare le condizioni di un'istruzione popolare controllata ed omogenea ed in sostanza organica all'egemonia del ceto borghese, condizioni individuate d'un lato in una nuova cultura laica e scientifica e dall'altra nel rafforzamento dell'organizzazione centralistica della scuola, testimoniata tra l'altro dall'incremento dell'apparato amministrativo centrale e dal corpo ispettivo, si scontra, come credo di aver dimostrato, con una realtà molto complessa e comunque difficile da dominare in una chiave tutta ideologica o troppo ideologica. Sul piano storico questa constatazione mi pare offra due indicazioni ugualmente importanti. La prima è che è problematico parlare di una Italia scolastica almeno prima del 1890. Io penso che esistano diverse Italie scolastiche e che a poco riusciremo a definire meglio. La seconda è che gli sforzi, tuttavia, per accelerare i processi unitari sul piano educativo scolastico costituiscono una variabile non secondaria, forse determinante, per l'affermazione, che si manifestò in forme più evidenti in seguito, di un modello scolastico piuttosto uniforme, gestito dallo Stato e fortemente accentrato, che rappresentano ancora oggi le caratteristiche di fondo del sistema scolastico italiano. Grazie. Un grazie sincero anche a nome di tutti voi a Giorgio per questo suo lavoro che ho seguito con grande interesse. Mi sembra che tutti gli ascoltatori siano rimasti presi dall'importanza dei temi toccati e anche dalla completezza del panorama, del quadro che il professor Chiosso ci ha presentato. in riferimento al nostro tema generale del Kulturkampf, è evidente che ci muoviamo su una logica di caso di studio, di settore di verifica, di momento di controllo, dove, e questo mi pare l'aspetto più nuovo, interessante e spero sollecitante ai fini del successivo dibattito, le considerazioni, le informazioni di carattere generale, complessivo, istituzionale, di quadro, sono riempite di contenuti, di problemi, di verifiche, e dove quindi la storia assume una sua spessore, una sua dimensione che non è più solo, non è più solo quella delle norme, non è più solo quella delle regole o delle intenzioni o delle volontà politiche, ma è quelle dei riflessi che tutto questo ha nel corpo sociale, delle risposte che queste decisioni pure importanti provocano, della dialettica che a un certo punto si instaura, si istituisce tra le scelte della classe dirigente, gli indirizzi politici e la vita reale poi delle popolazioni del paese. La scuola è certamente, mi sembra, uno dei terreni classici in cui il confronto fra Stato e Chiesa è più chiaro, viene da molti concepita nell'Ottocento la scuola come l'alternativa alla Chiesa, è la Chiesa moderna, e vi sono tutta una letteratura in questo senso, ma in realtà poi la verifica concreta ci permette di vedere come la questione si tende a complicarsi in relazione soprattutto alla permanenza di dati di lungo periodo nel tessuto della storia locale, della storia nazionale, delle mentalità, dei modi di essere e di vivere, delle condizioni in cui la scuola stessa si situa, per cui l'analisi storiografica deve raffinare i propri strumenti e deve necessariamente anche confrontarsi con questi elementi. Moltissimi sono gli spunti, gli stimoli che mi pare si possono ricavare da questo così completo quadro, che ha avuto anche il merito, a mio modesto giudizio, di riuscire a conciliare la presentazione di temi e diciamo di indirizzi della storiografia, e quindi di essere anche informativo per tutti noi, con il chiarimento, la messa a fuoco di alcune questioni interpretative di carattere complessivo, che su cui credo ci saranno molte possibilità di intervento. Certo, quello che Chioso ci ha presentato è un po' un mondo che ha tra l'altro una quantità di riflessi nella letteratura. Ha citato i romanzi di Amicis quando parlava della importanza, giustamente secondo me ha sottolineato dell'importanza del significato dell'insegnamento della ginnastica nella scuola. Pensate che cosa l'insegnamento della ginnastica per esempio ha potuto significare sul piano del costume, delle abitudini anche, dell'uso del corpo e così via. Mi è venuto subito in mente un quasi, ormai quasi sconosciuto romanzo di Amicis che ha un titolo commovente, Amore e ginnastica, vero? Che è il, appunto un po' la celebrazione di questa, che è la storia anche amorosa, con tutti i pudori, gli eccessivi pudori di De Amicis, di una maestra di ginnastica della scuola italiana di fine secolo. E il modello prussiano, il riferimento al modello istituzioni culturali non italiane, questo mi pare fondamentale. Ricordo le celebri pagine di Chabot sulla l'importanza che a un certo punto della storia della politica estera italiana, che a un certo punto assume in Italia, nella cultura italiana, il guardare a modelli, a tipi, a istituzioni non italiane, ma nello stesso tempo invece la quantità di storia nazionale, di specificità, di qualità nazionali che continuano a correre e a pesare, se vogliamo usare un termine anche negativo, e comunque che garantiscono, assicurano una continuità, in un certo senso, di una storia con la quale queste classi dirigenti sono tenute a fare i conti. Il problema dell'insegnamento della religione, questo mi pare anche fondamentale, una scuola che si tende a laicizzarsi, ma che però continua alla fin fine, in modo indiretto, ad assicurare un insegnamento religioso che viene, che viene utilizzato da una quantità notevole, vero, di bambini e quindi di famiglie, e da qui, diciamo, questa funzione in un certo senso anfibia che lo Stato laico esercita in Italia, che e nello stesso tempo si propone esiti, finalizzazioni laicizzatrici, ma che è però anche canale invece di formazione religiosa. Questo implica tra l'altro complessi problemi, rapporti con la Chiesa, con le istituzioni, ma soprattutto con il personale ecclesiastico, che vanno collocate anche nell'atmosfera spirituale, diciamo culturale del tempo. Nella vita quotidiana il prete che insegna in una scuola è una figura che ha un grande significato all'epoca, anche se frequentemente, più delle volte, come è stato detto, è una scuola pubblica. La femminilizzazione del personale insegnante e la permanenza e la forza che questo ha avuto, secondo me, come continuità di un certo familismo anche, probabilmente, tipico della nostra cultura e forse non altrettanto evidente in esperienze educative e scolastiche di altri paesi. Insomma, mi pare una serie di elementi che abbiamo ora sul tappeto. Io proporrei di fare una piccola pausa, non so se il professor Lille e gli ascoltatori sono d'accordo, di fermarci, non so, 10 minuti, in modo che anche chi vuol fare gli interventi possa, e mi auguro che siano molti, possano eventualmente riflettere. Allora sospendo la seduta, ora sono le 5:20, riprenderei alle 5:10 e darei la parola a chi la chiede. Grazie. Mit einbeziehen muss. Dankeschön. Grazie, benvenuto. Allora apro la discussione. Proverei a sperimentare questo tentativo, pregherei Trinchese, se può venire qui vicino, di provare a fare brevi traduzioni. In conseguenza prego chi interviene, quale che sia la sua lingua, di fare degli interventi il più possibile concisi e anche chiari, per non mettere a dura prova i nostri amici che non sono nemmeno pagati per questa loro attività di traduttori. In altre occasioni avrebbero dei compensi, delle prebende di natura economica non indifferenti. Ha chiesto la parola padre Martina, credo che possa usare quella specie di microfono vagante, provi. Si sente? Si sente? Beh, comunque la mia voce è molto alta, dunque io volevo, non dico fare una controrelazione, ma dire varie impressioni, un rallegramento agli organizzatori che hanno introdotto questo tema, che solo apparentemente è lontano dal tema centrale, ma la realtà è diversa, ha una stretta connessione con il tema centrale. Basterebbe ricordare che quel detto tedesco che i vincitori delle battaglie tedesche nel 70 sono stati i maestri elementari, gli istitutori che avevano formato i soldati tedeschi nella scuola, e un rallegramento all'autore della relazione per la competenza che ha dimostrato. E direi che sono d'accordo in vari punti, prima di tutto per l'entusiasmo che aveva l'Italia degli ultimi decenni dell'Ottocento per la Germania, per il mito tedesco e del resto, e chiedo scusa se faccio un'allusione familiare, mio padre, dopo la laurea e dopo la vittoria nel concorso in magistratura del 1906, diciamo quegli anni lì, venne mandato un anno a Berlino proprio per conoscere, formarsi ulteriormente. Si pensava che un anno passato a Berlino avrebbe formato un migliore giudice, e frutto di quell'anno fu proprio passato a Berlino, fu proprio un libro che gli scrisse, Studi di legislazione germanica. Questo mito quindi durava ancora ai primi del Novecento. Oggi forse questo mito è sostituito dal mito per gli Stati Uniti, forse mio padre adesso sarebbe stato spedito non a Berlino ma negli Stati Uniti. E sono d'accordo anche nelle conclusioni finali che hanno ricordato la varietà dell'Italia scolastica, e su un altro punto sono perfettamente d'accordo, nella continuità di un'educazione religiosa, o meglio sul fatto concreto che la stragrande maggioranza dei genitori sceglievano l'istruzione religiosa nelle scuole elementari. Detto questo, sono profondamente in dissenso con l'autore della relazione, non per la mia qualità di sacerdote, perché non c'entra nulla, e non, anzi, se permettete anche una riflessione, un ricordo personale, le mie ascendenze, come sa bene il professor Vandruska, sono tutte garibaldine, risorgimentali, eccetera. Vabbè. Ma sono in disaccordo per l'amore alla verità. Sono in disaccordo su due punti: sul metodo seguito nella relazione e sul tono che ha sottolineato troppo alcune cose e poco altre, finendo per dare un quadro forse che si avvicina alla verità, ma si poteva avvicinare di più. Sono in disaccordo, e lei mi permetta se sono molto sincero, sono un gesuita non gesuita. Dunque, prima di tutto sul metodo, e il metodo, lei si è fermato molto sui programmi e forse in modo eccessivo, e non sulla realtà concreta a cui questi programmi rispondevano. I programmi lei li ha condotti bellissimi, cioè, sì sì, erano tutti molto belli, sì sì, va bene, ma la realtà qual era? E la realtà era diversa, e questi signori della destra o della sinistra, che poi erano stretti parenti, erano lontani dalla realtà, stavano a tavolino e avevano paura di spendere troppo e facevano belle utopie. Permettetemi che io usi un'immagine molto veristica, cruda, che forse vi scandalizzerà. L'Italia della fine dell'Ottocento ha voluto mettere delle cravatte a dei bambini che non avevano le mutande. E prima mettete le mutande e poi metteremo la cravatta, la ginnastica. Vede, lei avrebbe potuto studiare, leggere e mettere l'accento, studiare e leggersi, l'ha letto certamente, per carità, non voglio dire che lei non l'abbia letto, ma considerare, esporre nella relazione il settimo volume degli Annali di Einaudi, la storia della medicina. Avrebbe potuto tener conto degli atti degli ultimi congressi di storia del Risorgimento, che lasciando da parte ormai tutta la retorica garibaldina e mazziniana, studiano i risultati, che cos'è successo, che Italia è venuta fuori dal Risorgimento. E la relazione di Della Peruta al congresso di Viterbo del 1978, ormai lontano, ma anche le relazioni seguenti, soprattutto i volumi di Della Peruta, dove si vede che persiste in Italia una forte mortalità infantile, che in molti comuni, specialmente della Sardegna e del Mezzogiorno, manca il medico, manca la farmacia, per cui è diffuso ancora nelle valli alpine il gozzo e il cretinismo, e le case sono sovraffollate e prendiamo Bacchelli, il mulino del Po, la pellagra è estremamente diffusa, questa malattia oggi scomparsa sostanzialmente, dovuta soprattutto alla, in termini difficili che mi fanno un po' sorridere, a quello che chiamano avitaminosi, cioè mancanza di vitamine, dovuta all'alimentazione basata sulla polenta, perché i contadini del nord mangiavano polenta mattina, mezzogiorno e sera, e la carne se la vedevano una volta al mese. Il risultato, proprio questa polenta, polenta e polenta, portava questa pellagra, cioè questa consunzione dell'organismo. E il quadro potrebbe ancora continuare. E allora a tutte queste realtà noi proponiamo la ginnastica. Io non scendo a ulteriori commenti, ma dentro mi sento un po' fremere. A queste popolazioni del Mezzogiorno, abbandonate largamente dallo Stato, gli statisti propongono un ideale morale, il senso dello Stato, potrei leggere ancora parole molto belle, sì, erano convinti, tutto questo, l'istruzione non doveva essere disgiunta dall'educazione, che nel linguaggio del tempo significava interiorizzazione dei valori nazionali e di organicità sociale intorno a cui si andava consolidando il giovane Stato italiano. E a questi magnifici programmi fatti a tavolino corrisponde nel Mezzogiorno, a un certo punto, il fenomeno massiccio dell'emigrazione, con quelle fotografie realistiche che abbiamo visto in tanti manuali di storia di questi poveri italiani sbarcati a New York con il terrore sul volto. E questi contadini erano abbandonati dallo Stato e si erano trovati di fronte alla coscrizione militare obbligatoria e le tasse. E lo Stato italiano significava essenzialmente pagare tasse e fare il soldato ed essere indifesi di fronte al proprietario agricolo. Corrado Alvaro, racconti da Aspromonte, e oggi la parola Aspromonte ha un eco nei nostri cuori, via del Corriere della Sera di oggi, o di ieri, proprio c'è tutto un lungo articolo sulla Aspromonte, e che Sella e Correnti e Calcopino e Baccelli hanno fatto dei bei programmi a tavolino, non so fino a che punto avessero letto l'inchiesta sul Mezzogiorno, quanto conoscevo, se fossero andati il Mezzogiorno a Leccio, in Sicilia, c'erano andati sulla Spromonte, non lo so. Si rendevano conto che il contadino si sentiva abbandonato dallo Stato e quindi nutriva una fortissima avversione per lo Stato. E a questa avversione poi è susseguita la mafia, che ha radici lontane e che oggi è divenuta una tragedia nazionale. E allora la scuola, i programmi scolastici. Ecco, la mia reazione di uomo è che l'Italia liberale pensava alla cravatta e non pensava alle mutande, cioè si cullava in sogni utopistici e quando poi si trattava di spendere, dopo aver visto il programma prussiano, sì, tanto bello, allora applichiamo, ma bisogna pagare, prima i bilanci militari, quelli sono intangibili, e si deve spendere troppo per lo Stato italiano. Prendete un libro molto discusso, Giordano Bruno Guerri, Povera Santa e Povero Assassino, è una ricostruzione della vita di Maria Goretti, molto discutibile, non la condivido per tanti aspetti, ma ha alcuni capitoli validi sulle paludi pontine, a poca distanza dal Quirinale, dove Umberto I faceva ogni tanto dei grandi ricevimenti. La popolazione italiana e i bambini italiani vivevano una miseria più nera e le scuole, c'erano le scuole ad Anzio, e se c'erano come si poteva frequentare quando si era a 14 km dal paese? E allora c'erano mezzi di comunicazione? No, i poveri contadini potevano mandare la loro figlia ad Anzio, 14 km all'andata e 14 km al ritorno. E questi sono in fondo le mie riserve su questa relazione, cioè un eccessivo accento dato ai programmi e una scarsa o meglio insufficiente considerazione data ai risultati di questi programmi, alla realtà storica concreta. Siamo nel centenario di Pinocchio e nel libro di Pinocchio, che ha un suo valore e che si contrappone un po' a cuore, due volti dell'Italia, due volti contemporanei, perché i libri escono a poca distanza l'uno dall'altro, penso. Pinocchio, secondo l'autore, cioè Geppetto, il padre di Pilpadre, immaginario di Pinocchio, vende la camicia per comprare il sillabario a Pinocchio. E beh, in fondo quel maledetto toscano in quel racconto mette in risalto anche uno di questi aspetti, che per poter provvedere al minimo che di quello che esigeva la scuola, almeno un libro per imparare a leggere e scrivere, i contadini dovevano fare qualche sacrificio che costava parecchio per loro, che incideva sul bilancio familiare. Pregherei il padre Martina di concludere, perché se no non abbiamo più tempo per discussione. No, soprattutto che non abbiamo tempo di dare ai nostri amici. Le mie riserve sono prima di tutto un troppo accento dato ai programmi e uno scarso accento messo sulla realtà concreta. Dimenticato che questi ideali erano astratti e il risultato è stato controproducente, non hanno rimediato, il senso dello Stato è mancato. E soprattutto, è mancato soprattutto perché lo Stato non è intervenuto in modo concreto, aiutando le popolazioni. E poi un'altra scena che mi ha fatto ridere, quella di ideale militare. Pensavo alla cultura militare che ci hanno introdotto a scuola quando facevo la ginnasia nel 1936. Che commedia con quella cultura militare, che buffonate che ci hanno portate poi all'8 settembre. Also der Beitrag, einverstanden ist Padre Martina mit dem engen Zusammenhang zwischen Kulturkampf und Schulfrage, das wird nicht in Frage gestellt. Es gibt ja den Spruch, dass die Sieger in Deutschland, die Sieger von 70, 71, die eigentlich die Schullehrer sind, weil sie die Soldaten gelehrt haben. Der Enthusiasmus für den Mythos Deutschland ist unbestritten. Kritik wird geübt an der Schwerpunktsetzung des Vortrags. Es seien allein die Programme behandelt worden und nicht die Realität, das Resultat des Risorgimento, an dem Schwerpunkt und an den Methoden. Tatsächlich sei es so gewesen, die Klasse Dirigente habe am grünen Tisch Programme entworfen, für die sie dann noch nicht mal Geld aufzubringen bereit war. Das verdeutlicht der Spruch, sie wollten Kindern Krawatten umhängen, ehe sie ihnen überhaupt Unterwäsche besorgen konnten. Die Realität des Risorgimento ist eine andere: Kindersterblichkeit, Krankheit, Debilität, Unterernährung, also Programm, Anspruch und Wirklichkeit stimmen nicht überein. Prima di restituire la parola al professor Chiosso, vorrei ascoltare qualche altro intervento. Prego. Ich möchte eigentlich auf beide Vortragenden sozusagen gleichzeitig antworten. Es ist hier aus nicht selbstgemachten, aber im Rheinland von mir rezipierten Forschungen zur Schulwirklichkeit bekannt, wie außerordentlich schwierig es ist, die wirklich unterste Realität in den Dörfern, in den Städten überhaupt zu rekonstruieren. Das ist eine Arbeit, die kann man praktisch nur stadtviertelweise erledigen. Damit erledigt sich eigentlich aber auch schon der Einwand von Pater Martina, hier sei nur über Programme gesprochen worden. Ich habe das so auch nicht bei Herrn Chiosso in Erinnerung, dass er nur über Programme gesprochen habe. Aber noch etwas anderes zu Pater Martinas brillanter Intervention. Ich höre aus ihrer Stimme gewissermaßen wie über 100 Jahre entfernt Don Albertario und Don Margotti. Die Unione Cattolica oder der Osservatore Cattolico hieß es und Union in Turin, diese Stimmen sind in ihnen hier wieder auferstanden. Eine Fundamentalkritik am modernen Italien, die ich so für ungerecht halte. Es ist richtig, dass es Pellagra gab und alle diese Elendigkeit. Aber hätten deshalb die Kultusminister Italiens einfach die Hände in den Schoß legen sollen und sagen, tutti i soli soltanto per la medicina, oder wie? Man muss auch im Schulbereich einmal anfangen. Und Herr Chiosso hat Statistiken vorgelegt, die einen starken Anstieg der Alphabetisierung zeigen. Und es ist auch eine Erfahrung aus der modernen Entwicklungspolitik, dass eine verelendete Bevölkerung nur durch die volle Alphabetisierung gehoben werden kann. Die Alphabetisierung ist die unterste Basis jeder kulturellen und auch wirtschaftlichen, von moralischer Entwicklung. Soweit zu Ihrer Intervention, die ich trotz Ihrer brillanten Darlegung für nicht angemessen halte, den Vortrag von Herrn Chiosso zu interpretieren. Allora, il professor Weber pone un primo problema sulla difficoltà, intanto, come dire, di metodo per procedere a questa ricerca nel differenziare quello che succedeva nelle città o nei circoli cittadini e nei villaggi, dove è molto più difficile accedere, quindi è tutta una realtà culturale che è limitata probabilmente a questo elemento. E, venendo poi all'intervento critico del padre Martina e con riferimento alla relazione Chiosso, lui non condivide, nonostante sia stato molto interessato dagli aspetti rilevanti, eccetera, non la trova, come dire, sì, attinente a quanto sviluppato dal professor Chiosso, perché lui si è limitato soltanto ai programmi che, ad avviso del professor Weber, sono da considerare come, intanto da un lato, come la precisa volontà governativa di introdurre una pedagogia di completa alfabetizzazione in Italia, e dall'altro come l'unica possibile base, a suo avviso, di un autentico sviluppo morale del paese. Economico e morale. E ha introdotto poi, credo come domanda rivolta al padre Martina, quanto quella critica fondamentale all'Italia moderna sviluppata dai vari Albertario, Margotti e dagli intransigenti. Molte richieste, professor Magica. Voglio soltanto dire quanto sono felice, posso parlare in una camera adesso, quanto sono felice della presenza di padre perché io in questo sono un po' un essere diviso, perché da un lato della mia entrata della discussione italiana, del mondo scientifico italiano è avvenuto attraverso i congressi della storia. ex-combattenti. Gli ex-combattenti del risorgimento, sì. Sì, che comunque una lunghissima discussione con il Farati, con mettevano il dito su quello che il locale esiste. Sì, stati segnato, sì. E così, d'altra parte, qui, in questo ambiente, naturalmente sono tutti... una realtà. Mi perdoni, insegna una realtà italiana, non è che proprio l'Italia si riassuma nel Gattopardo, diciamo che è una certa visione, ecco, una certa... Sì, ma non vorrei che gli stranieri pensassero che l'Italia sia quella del Gattopardo, perché questo sarebbe leggermente preoccupante come immagine che siamo riusciti a fornire del nostro paese. Certamente. Certamente. Grazie molto professor Vandruska, credo che siamo tutti grati a padre Martina per il suo intervento, come siamo grati agli interventi di tutti. Raccomanderei, poiché ci sono finora, ma non abbiamo ancora chiuso le iscrizioni, ai iscritti a parlare, professor Stadler, Becker, Menozzi, Lill, Trippen, non so se vi sono altri che vogliono iscriversi, raccomanderei di attenersi il più possibile alla relazione del professor Chiosso e quindi al tema che abbiamo sul tavolo questo pomeriggio, anche perché è in ferma intenzione dei co-presidenti di questa tavola di chiudere i nostri lavori per le ore 18 e quindi abbiamo ancora poco più di mezz'ora di lavoro. Chiederei forse alla Cristiane di fare... Das war eine Grußadresse an Padre Martina, über den Ausdruck der Freude, dass er hier ist, denn es ist eine gute Tradition des Hauses, Kritik am Risorgimento zu üben, zumindest an der Idealisierung. Grundsätzlich der Unterschied zwischen Italien und Deutschland. In Deutschland ist die Basis der Geschichte die Reformation und die daraus erfolgende konfessionelle Teilung. In Italien ist es der Nord-Süd-Konflikt, der Campanilismo und, was die Historiografie betrifft, der Gegensatz laizistisch-katholisch. Grundsätzlich findet der Unterschied zwischen ihrem Anspruch des Risorgimento und der tatsächlichen Verwirklichung vielfach in der Literatur den Niederschlag. Es müsste ein Kompromiss gefunden werden zwischen der Idealisierung einerseits und der Dämonisierung andererseits. Das wäre eine Aufgabe der Historiografie. Professor Stadler. Ja, nur eine ganz kurze Erkenntnis, die leider zu spät gekommen, auch in den schweizerischen Kulturkampf hat die Schulpolitik einmal eine entscheidende Rolle gespielt. Und zwar, glaube ich, das war ein etwas spezieller Fall, insofern, dass es zu einer schweizerischen Volksabstimmung kam über eine Neuerung, in dem ein Schulsekretär, ein eidgenössischer Schulsekretär, die gesamte kantonale Schulen kommt. comunque anche in Svizzera sia gli aspetti culturali che quelli politici del Kulturkampf hanno avuto un ruolo probabilmente decisivo per la storia svizzera, soprattutto in ordine ad alcuni problemi, all'efficacia dei plebisciti popolari in termini di rinnovamento, e questo non soltanto nei cantoni a prevalenza cattolica ma anche negli altri. Poi nella politica scolastica questo è importantissimo, e soprattutto su un punto particolare per il quale il professore vuol sapere se in Italia e negli altri paesi ci sono dei casi analoghi, e cioè gli esami e quanto c'è nelle fonti attinenti ai soldati impegnati nei vari cantoni, nel caso svizzero, dove l'educazione cattolica è da esaminare nell'eterogeneità del caso svizzero, e dove questa non veniva considerata per niente la peggiore, appunto, rispetto agli altri modelli di impostazione nella pedagogia militare. Ah, se c'era. Sì. Quale esame? Un esame delle reclute di cui avrebbero dovuto rispondere se sapevano leggere. Ah, certo che c'era, certo. Professor Becker. Professor Becker rimarcava anche quanto già introdotto dal padre Martina circa la distanza, appunto, tra, soprattutto nella questione riforma scolastica, tra la realtà e i programmi, dove naturalmente la teoria ha giocato un grosso ruolo programmatico evidentemente, ma dove esisteva questa realtà da far parlare anche di diverse zone di applicazione. La domanda invece precisa è se c'era un'opposizione effettiva politica a questa politica scolastica, così come in Germania ci sono stati dei casi rilevanti, e quali erano le istanze politiche che erano dietro tanto la politica scolastica quanto l'eventuale opposizione. Professor Menozzi. Ho avuto anch'io l'impressione, sentendo quello che diceva il padre Martina, di riascoltare alcuni giornali ottocenteschi, e tra i quali aggiungerei anche la Civiltà Cattolica, naturalmente, per cui mi sembra che ci sia una certa continuità. E devo dire che questo mi ha stupito un pochino, perché credo che il padre Martina ci abbia insegnato a tutti con i suoi lavori a considerare l'Ottocento in una prospettiva un pochino diversa, cioè a tenere conto in primo luogo di quella che era l'eredità dello Stato liberale. Qual era la situazione nel campo dell'istruzione che lo Stato liberale riceveva? Ed era un'eredità in cui la Chiesa cattolica era largamente compromessa. Lo Stato cattolico pre-liberale era uno Stato sostenuto dalla Chiesa, era uno Stato in cui la Chiesa gestiva praticamente l'istruzione, penso ad alcune pagine del padre Curci, ad esempio, su questa questione. Per cui credo che se si vuole giustamente criticare la politica scolastica dello Stato liberale, non si può non tener conto dell'eredità che questo Stato riceveva, di un'eredità appunto che era largamente gestita dalla Chiesa. In secondo luogo, il padre Martina ci ha insegnato, oltre a questo dato di fatto, anche un'altra cosa che mi pare importante, E cioè che quando la Chiesa, nel corso della seconda metà dell'Ottocento, dopo l'unità, si scaglia contro i vari aspetti della politica dello Stato liberale, non lo fa sempre in una prospettiva di crescita, di miglioramento dello Stato e della società, ma lo fa con una rivendicazione di potere. Per cui appunto, se si vuole tenere conto in maniera equilibrata, corretta, oggettiva, di quello che è lo Stato liberale, anche della politica scolastica dello Stato liberale, credo che occorra tener conto del fatto che contro questa politica la Chiesa si lanciava in nome di una rivendicazione di potere e di controllo dell'istruzione. Credo che dobbiamo appunto svolgere, forse oggi più che mai, quando sentiamo appunto la ripresa di discorsi dell'intransigentismo ottocentesco sullo Stato liberale, credo che queste cose che lo padre Martina ci ha insegnato dobbiamo più che mai tenerne conto. E da questo punto di vista una domanda specifica alla relazione che mi è sembrata equilibrata, devo dire, di Giorgio. E cioè, questo Stato liberale appunto fa una politica anche nei confronti della istruzione religiosa, lo ricordava lo stesso padre Martina. Vorrei chiedere due cose. La prima cosa: ha mai lo Stato liberale preteso un controllo su questa istruzione, che sappiamo facoltativa, ma comunque era delegata totalmente alla Chiesa, oppure c'era in qualche modo un controllo? In secondo luogo, chi pagava questa istruzione? È possibile vedere se appunto lo Stato liberale ha, diceva giustamente il padre Martina, non ha speso in opere sociali, però quantomeno ha speso per l'istruzione religiosa, e credo che di questo ne dobbiamo tener conto. Ho l'impressione che gli ultimi flotti o fiotti del Kulturkampf stiano giungendo su questo tavolo. Il che mi fa piacere, beh, dimostra che gli storici, nonostante quello che si dice, hanno a che fare con la vita. Sono molto contento anche della vivacità degli interventi, e chiederei a Cristiane di fare una rapida traduzione dell'intervento del collega Menozzi. Der Professor Menozzi hat gesagt, dass ihn manches in der Stellungnahme von Padre Martina an Stimmen aus dem 19. Jahrhundert erinnern und nicht zuletzt an Civiltà Cattolica selbst. Man muss bei dem Urteil über das 19. Jahrhundert natürlich präsent haben, dass das Erbe, das der liberale Staat antrat, ja das Erbe der Erziehung der katholischen Kirche war. Also was geändert werden konnte oder auf die Basis, von der ausgegangen werden konnte, war ja die dominiert worden war von der katholischen Kirche. Und es war ja gerade die Lehre von Padre Martina gewesen, zu sagen, dass es nicht nach der Unità eine Kritik im Sinne des modernen Staates seitens der Kirche war, sondern im reaktionären Sinn, also zur Rückeroberung von Machtansprüchen, um die Kontrolle gegenüber dem liberalen Staat wiederzugewinnen. Anderer Kritikpunkt: der liberale Staat hat immerhin den Religionsunterricht offen gelassen. Er hat ihn bezahlt, er hat die Möglichkeit dazu geboten. Bene, grazie. Professor Lill. Sì, vorrei fare quattro osservazioni. La prima riguarda questa discussione così vivace. Io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che ha detto Chiosso e quello che ha detto Menozzi, ma non sarei così duro contro il padre Martina, perché mi pare non è un ritorno all'Ottocento, ma un riesame critico dello Stato nazionale e della sua realtà. Bisogna superato l'entusiasmo per gli Stati nazionali, bisogna studiare le realtà della società. Weber ha certamente ragione quando ha parlato del ruolo essenziale della alfabetizzazione per ogni società moderna, giustissimo, ma dobbiamo anche vedere in che punto gli stati erano capaci a realizzare, e la realtà del meridione è quella che ha descritto lui. La seconda osservazione riguarda l'entusiasmo per la Germania, i viaggi scolastici in Prussia. Sarei un po' cauto, perché ho l'impressione che questo entusiasmo per la Germania, e con ciò allarghiamo un po' il quadro al tema più generale di rapporti italo-tedeschi, che questo entusiasmo è stato sempre solo parziale e temporale e che col tempo è molto diminuito. Una società italiana più liberale contro di fronte ad una Germania più autoritaria, militare, eccetera, eccetera. Allora là si dovrebbe forse indagare ancora di più. Una terza brevissima osservazione, lei, se non ho sentito male, ha parlato di legislazione tedesca in campo scolastico. Quella non è mai avvenuta, perché tutte le cose scolastiche erano nella competenza dei vari stati, cioè la legislazione era della Prussia, oppure della Baviera o del Baden, sebbene che la Prussia copriva più di 2/3 della popolazione e del territorio, però si tratta di leggi prussiane del 72 e del 73. E quarta ed ultima, anche nella Prussia abbiamo in quel periodo di alleanza, a mio avviso strumentale, tra Bismarck e i liberali, abbiamo questa grande spinta liberale nella politica scolastica fatta dal liberale ministro del Kultusminister Falk, il quale ha anche fatto moltissimo per aiutare e per portare i maestri ad un più alto livello culturale, economico, finanziario, eccetera. Questa è la tipica spinta liberale, politica liberale della scuola, e come succede spesso anche, pensiamo a Bildungsministerium, Wissenschaftsministerium degli anni 70, si dà la scuola ai più progressisti, mentre si tiene a sé la finanza, eccetera, eccetera. Allora Falk è proprio questo... L'interno, sì. Falk è proprio un uomo di molte analogie con questa politica, però la Prussia è ben presto tornata su posizioni più conservatrici e dall'80 abbiamo proprio nella Prussia, che era la potenza del Kulturkampf, praticamente il ritorno alla ispezione scolastica del confessionale. La Schulaufsicht apparteneva di diritto allo Stato, però fu per concessione statale, praticamente tornava alle due confessioni religiosi, di modo che fino al 18 i parroci cattolici e i pastori protestanti fungevano da Schulinspektor proprio nella Prussia, non nel Baden, il quale era più liberale. Grazie. Grazie. Vier Punkte. Einmal, grundsätzlich ist natürlich legitim eine kritische Sicht des Stato Nazionale nochmal vorzunehmen. Und da wird eben deutlich, dass die Alphabetisierung einerseits als Programm unumgänglich war, aber zugleich natürlich geprüft werden müsste, was sie in Wirklichkeit gebracht hat. Also das kann nicht getrennt werden. Dann ist Vorsicht geboten bei der Erwähnung des Enthusiasmus für Deutschland. Der gilt nur eingeschränkt und zeitweise, denn je liberaler der italienische Staat wird, desto größer wird seine Kritik am reaktionärer werdenden Deutschland. Drittens, eine grundsätzliche Sache ist in den deutschen Ländern Schulgesetzgebung Ländersache. Viertens, in Preußen war zunächst die Entwicklung so, dass, wie es oft geschieht, die Schulangelegenheiten den progressiven Politikern überlassen wurde, aber seit dem Jahre 80 kehrt praktisch oder wird die staatliche Schulaufsicht praktisch wieder an die Konfession Angelegenheiten den progressiven Politikern überlassen wurde, aber seit dem Jahre 80 kehrt praktisch oder wird die staatliche Schulaufsicht praktisch wieder an die konfessionellen Stellen zurückgegeben, sodass de facto, also in Preußen zumindest, wieder die konfessionelle Schulaufsicht vorherrscht. Thank you. Danke. Professor Tripp. Dunque, il professor Trippen sottolinea intanto le molte diversità, ma soprattutto le difficoltà anche metodiche di studiare questo problema dei differenti approcci nella battaglia per la cultura e per la scuola, che ha avuto effetti anticlericali assai diversi a seconda delle varie zone e che però non va assolutizzato, cioè per esempio in Germania l'esigenza di darsi un diritto scolastico proprio non è o non è soltanto una conseguenza diretta del Kulturkampf. Così come in Italia abbiamo un risorgimento anticlericale, laico evidentemente, che porta a tutte le conseguenze che sono venute fuori poi anche durante la discussione, ma che anche qui bisogna dire che lo Stato moderno ha un legittimo interesse storicamente provato a darsi un ordinamento scolastico e conseguentemente a controllarne gli effetti attraverso una precisazione di metodiche e legislazioni. Sì. Allora do la parola a uno studioso che ha un nome francese, si chiama René, un cognome italiano, si chiama Del Fabbro ed è tedesco. Segno della crescente dell'Europa, che l'Europa avanza. Studia all'Istituto dell'Europa. Prego, lei la parola, se riesce a trovare un microfono. il signor Del Fabbro interveniva di nuovo sulla diatriba Martina Weber, dicendo che in fondo hanno entrambi ragione, se si considerano i fatti storici, e forse introduceva differenze appunto di metodo. E poi toccava il problema dell'analfabetismo, che ancora in questo secolo è importantissimo, soprattutto in Italia, il semianalfabetismo, soprattutto in riferimento agli emigranti in Germania, che poi non sono solo quelli del sud, ma anche quelli delle Venezie. Ci sono altre richieste di intervento? Possiamo dare la parola al relatore? Allora passo la parola al professor Chiosso. No, per carità. Sono grato a tutti quelli che sono intervenuti, perché mi hanno offerto in misure diverse, come dirò, però dei suggerimenti di tipo integrativo, perché quando si pensa una relazione si parte con un certo progetto, ne avevamo parlato anche col professor Tragnello, e però poi, voglio dire, dalla discussione che si arricchiscono le posizioni, e per esempio sono grato a padre Martina che mi ha sottolineato forse l'esigenza che un certo sguardo anche di natura sociale sulle reali condizioni effettive poteva forse essere utile per evidenziare ancora di più lo scarto che a me sembrava già di aver, come dire, di aver messo abbastanza in rilievo tra le linee tendenze della classe dirigente e il differenziato compiersi di questo progetto scolastico. Però riconosco che uno sguardo anche in quella direzione che diceva padre Martina può essere utile. Anche se devo dire che probabilmente padre Martini introduce un elemento più di complicazione che di semplificazione, nel senso che, come è anche stato rilevato da qualcuno che poi ha parlato dopo, non è tutto così, cioè non è tutto così nero e le mutande non mancano così tanto come lei diceva. Qualche mutanda c'era, mi conceda. Nel senso che io penso ad esempio alla realtà scolastica, no, lei l'ha fatto questo esempio, quindi no, scherzo. Non è senso che ad esempio, se restiamo alla letteratura, e mi pare che la letteratura De Amicisiana da questo punto di vista sia particolarmente significativa, ad esempio De Amicis si riferisce tutto a realtà urbane, dove il tipo di scolarizzazione, il tipo di popolazione scolastica, certo era molto differenziato perché c'erano i Garrone e Enrico, c'erano Franti e Muso di Lepre, però intendo dire era in generale non così, in condizioni così difficili come sicuramente invece era presente in alcune realtà del sud. Così come starei, o certe anche campagne del Cuneese, per esempio del Piemonte, no? Però starei anche attento a non radicalizzare questo contrasto urbano, città-campagna, perché ad esempio noi abbiamo dei dati statistici sull'analfabetismo e sulla scolarizzazione relative ad esempio alle zone a certe zone alpine, ecco, dove abbiamo dei casi di grande isolamento di tipo sociale, di tipo proprio anche geografico, dove però i tassi di scolarizzazione e di alfabetizzazione erano piuttosto elevati. Quindi intendo dire che il discorso del padre Martina portato fino in fondo complica molto la ricostruzione della questione scolastica, però mi pare anche che sia un'indicazione utile. Tuttavia devo dire che a differenza di quello che può essere, che è già avvenuto per altri ambiti del sapere, purtroppo la storia scolastica è ancora abbastanza povera, la nostra disciplina è ancora abbastanza povera di indagini specifiche di tipo così analitico del rapporto tra socialità e scolarizzazione. Ad esempio gli studi che io conosco per quanto riguardano la Francia sono certamente molto più, quindi molto più perfezionati. Probabilmente è anche necessario avere una base, se non si va per approssimazioni molto così sommarie, bisogna sicuramente avere una base documentaria che consiste in scavi molto approfonditi degli archivi comunali, ad esempio, oppure delle indagini che venivano compiute in relazione, cioè mettere in relazione con la scuola le indagini che venivano compiute sulle condizioni di miseria, di sottoccupazione che sono ricorrenti. Devo però anche dire, poi chiudo con il padre Martina, ma del resto lui mi ha dedicato ampio spazio, che però dovessi rifare la relazione non la farei comunque nella direzione da lui suggeritami. Cioè, mentre accetto e condivido in senso integrativo la sua proposta, però non la sposerei in senso alternativo. Nel senso che io credo che, pur con l'esigenza di commisurare sempre il progetto con l'attuazione, però il progetto ha pur sempre un'intenzionalità, una operatività, una capacità di tradursi, in questo senso credo che il professor Weber ha detto qualcosa in questa direzione, che di cui bisogna tener conto, nel senso che indica alcune linee di tendenza che poi nel caso della scuola italiana si sono rivelate particolarmente tenaci e condizionanti anche nella storia successiva. Sicuramente l'input determinato prima dalla legge Casati, poi dai processi di centralizzazione dell'ultimo Ottocento, rafforzatisi poi certamente con la legislazione del Novecento, hanno determinato un sistema scolastico attuale particolarmente rigido, vischioso al cambiamento, dove c'è una gestione prevalentemente centralistica, che mi sembra oggi sia un po' messo in discussione, ma dal quale tuttavia non si riesca tanto ad uscire. Al professor Stadler, che mi chiedeva se c'era l'esame per le reclute, rispondo affermativamente. Cioè le reclute al momento del reclutamento venivano sottoposte ad un esame teso ad accertare se erano analfabete, semi analfabete o analfabete totale. Tanto è vero che noi possediamo, e questo sarebbe un altro settore di cui meriterebbe certamente studiarlo più accuratamente, statistiche molto precise e analitiche sui gradi di analfabetismo delle reclute per i vari anni, quindi è una fonte abbastanza accessibile. Così per i matrimoni, in quanto anche chi andava al matrimonio attraverso se era in grado o meno di apporre la firma è possibile qualcosa del genere. Saper leggere e non scrivere, esatto, sì. E tanto è vero che vengono attivate le scuole reggimentali, di cui ho detto qualcosina molto di corsa, per il recupero dell'alfabetizzazione delle reclute. Dunque, il professor Becker mi chiedeva se c'era una opposizione effettiva alla politica scolastica, e qui dovrò dedicargli un minuto di più, perché la sua domanda mi consente forse di ampliare anche alcune cose che per ragioni di tempo non ho potuto dire. Io direi che c'era una triplice opposizione alla mia relazione. L'idea di opposizione, ma forse anche qui è un suggerimento di cui terrò conto nella stesura definitiva. Perché in realtà c'era una triplice, di fronte a questo monolitismo sostanziale c'era almeno una triplice opposizione. Una era l'opposizione, adesso dirò, io sono uno storico di complemento, quindi mi perdonino gli storici con la S maiuscola se sono impreciso. C'era l'opposizione operativa dell'intransigentismo cattolico, il quale manifesta la sua intraprendenza nel moltiplicarsi di iniziative gestite da religiosi, congregazioni insegnanti. Fuori prima si parlava delle iniziative di Don Bosco, per fare un esempio che credo molti anche in Germania conoscono. Cioè, con la metà dell'Ottocento, adesso in maniera molto schematica, si assiste a una forte ripresa dell'interesse delle congregazioni verso il mondo della scuola. Ecco, quindi, e lì è un proliferare di iniziative scolastiche, che in generale non riguardano la scuola elementare, in quanto gestita dai comuni nei cui confronti i cattolici agivano in termini di politica amministrativa. Di solito invece l'iniziativa si rivolgeva alla formazione del ceto cosiddetto ceto dirigente, quindi scuole di tipo liceale o scuole di tipo tecnico professionale, questi sono i due. O terzo grande filone, l'educazione femminile, che era un altro cospicuo settore, in quanto si pensava che attraverso l'educazione femminile di incidere attraverso forme di comportamento familiare. Quindi c'era questo tipo di opposizione così, e poi del resto era scarsamente esatto. Poi c'era un'opposizione che definirei cattolico-liberale, anche qui non so se il termine è poi molto preciso, ma tanto per intenderci, che si manifestava o in ristrette elite culturali, penso ad esempio alla rassegna nazionale, no? Agli ambienti della rassegna nazionale, oppure ad esempio in Piemonte, in parte in Toscana, in misura minore nel Lombardo-Veneto, nella persistenza del rosminianesimo, ad esempio della tradizione rosminiana, e quindi della tradizione pedagogica spiritualista, o in Toscana lambruschiniana. Ad esempio abbiamo molti, ad esempio, per citare un solo esempio, il giornale per i maestri più diffuso in Italia tra il 1870 e il 1885-90 era un giornale di Torino intitolata La guida del maestro elementare, il cui direttore era uno dei fratelli Parato, che erano degli allievi di formazione, erano diciamo personalità torinesi di formazione rosminiana. Questi gruppi direi sono contro il centralismo dello Stato, rivendicano, contrastano ogni tentativo di ulteriore ingerenza dello Stato, rivendicano la gestione alla comunità locale, sono favorevoli in modo laico all'insegnamento della religione, cioè non come sosteneva la Chiesa l'introduzione del catechismo in termini confessionali, ma come una formazione che, essendo etico-laica, non era sufficiente se non si basava su una convinzione religiosa. Poi, sul finire del secolo, ma dopo il 1890, comincerà a esserci una opposizione prima radicale, poi assorbita dal Partito Socialista, in sostanza. Allora abbiamo poi un'opposizione che accusa la classe dirigente ideologia, accusa la classe dirigente liberale di non occuparsi abbastanza dell'istruzione. L'istruzione popolare diventa poi, dopo il 1891, uno dei tasselli della presenza del Partito Socialista. Al professor Menozzi, il quale mi chiede com'era regolamentato il funzionamento dell'istruzione facoltativa, dell'insegnamento della religione e chi la pagava, risponderò che questo era regolamentato dai regolamenti sull'istruzione elementare, i quali tenevano conto di due leggi che in apparenza erano tra loro in contrasto, che non erano in perfetta sintonia. Intendo dire, e chiedo scusa, ma qui proprio bisogna entrare nei particolari per capire la logica. La legge del 59, cioè la legge Casati del 59, che è la legge base, prevedeva l'insegnamento religioso obbligatorio per tutti gli allievi, salvo che per coloro i quali ne facessero richiesta di dispensa. Dalla circolare correnti del 29 settembre del 70, notare la data, 29 settembre del 70, e quindi recepita dalla legge Coppino sull'istruzione obbligatoria del 1877, la presenza della religione non è più obbligatoria. Nel caso la circolare correnti è facoltativa, è detto esplicitamente. La religione non è più obbligatoria, chi la vuole la richiede. La legge Coppino invece non dice questo, non prevede più nell'elenco delle materie obbligatorie l'insegnamento della religione. Allora, chi stende i regolamenti dopo il 1877 interpreta così, e in questo senso si esprimono poi i consigli di Stato dal 1878 in avanti: è obbligatorio per i comuni provvedere all'insegnamento della religione. Quindi la legge del 77 non ha cancellato quella del 59, ma, come dire, l'ha interpretata in chiave facoltativista. Allora, i comuni sono tenuti ad impartire l'insegnamento religioso, ma i genitori possono scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento religioso. Restava il problema chi lo impartisce. ordinariamente avrebbe dovuto impartirlo il maestro di scuola, però il maestro di scuola poteva anche rifiutarsi di impartirlo. Allora in questo caso il consiglio comunale, previa presentazione da parte dei genitori che chiedevano l'insegnamento religioso, dava l'incarico di impartire tale insegnamento a persona, diceva la legge, adeguatamente idonea, che spesso era anche un religioso. Quindi in ultima analisi quel 70% che seguiva l'insegnamento religioso lo seguiva e il pagamento era dei comuni, quindi era un pagamento pubblico. Ecco, al professor Lille lo ringrazio per alcune precisazioni e dico che per quanto riguarda ciò che ho detto dell'interesse per la Prussia, è tutto molto così, direi epidermico, approssimativo, perché non esistono precise ricerche oggi, anzi io spero che qualcuno intraprenda queste ricerche, sul reale livello poi di conoscenza del sistema prussiano in Italia, cioè se ne fa un gran parlare, ma poi in sostanza qual era tra l'altro il vero livello di conoscenza? Oltre a questa giusta osservazione che probabilmente nel tempo muta questo interesse. Sì. Ecco, però io in questo momento più che a quello studio di Romeo pensavo a una serie, ne ho in mente almeno 7-8 relazioni ministeriali di viaggi commissionati dal ministero per le ragioni più diverse, vanno, tornano, fanno queste relazioni che hanno una certa anche circolazione poi in Italia attraverso i giornali specializzati, attraverso... Ecco, io sostanzialmente avrei chiuso così. Grazie. È necessario? Also einmal noch als Antwort auf Padre Martina. Es ist ein Desiderat der Schulgeschichte, dass das Verhältnis von Schulreform und Sozialgeschichte weiter untersucht wird. Also wie hat sich die Schulreform tatsächlich in puncto auf die Schule und auf die Bildung ausgewirkt, davon zu unterscheiden die Sozialgeschichte. Insofern ist die Bemerkung eine Ergänzung und kein Ersatz, denn diese Programme sind nun mal relevant, sie haben zu der Legge Casati geführt und die hat ja nun tatsächlich ein modernes Schulsystem eingesetzt. Auf Professor Stadler, die Examen der Rekruten gab es und sie liefern eben eine ganze Menge an Statistiken, die ausgewertet werden können. Zu Professor Becker, die Opposition war dreifach. Einmal gab es die Opposition der Intransigenti, die ihrerseits diverse Schulinitiativen ergriffen haben, nicht unbedingt Elementarschule, aber zum Beispiel sehr auf dem Gebiet der weiblichen Schulausbildung, wo der Staat eben selber nicht aktiv wurde. Dann gab es die der liberalen Katholiken, die etwas elitärer waren, repräsentiert in der Rassegna Nazionale, Rosmini und Lambrosini in der Toskana, also die Zeitschrift La Guida del Maestro aus Turin stand unter dem maßgeblichen Einfluss von Rosmini. Diese wenden sich gegen die staatliche Kontrolle für eine stärkere Bedeutung der Kommunen im Schulsystem. Sie sind also nicht die Intransigenti, sondern laizistisch religiös oder laizistisch christlich, also für Religionsunterricht durch Laien. Und dann gab es drittens die radikale sozialistische Kritik an dem Schulsystem. Dann auf Professor Menozzi die Antwort zum Thema Bezahlung. Da gibt es die Entwicklung von dem 59er-Gesetz hin zu dem Gesetz von 77. Zuerst ist Religionsunterricht obligatorisch. Nur die sich ausdrücklich freistellen lassen, werden davon befreit. Und das geht dann graduell zurück, dass es nur noch das fakultativ ist, den Religionsunterricht überhaupt anzubieten. Und schließlich 77 heißt es, die Kommunen müssen die Möglichkeit zum Religionsunterricht bereitstellen. Also insofern wird das älteste Gesetz nicht ersetzt, sondern ausgelegt. Und Religionsunterricht muss geleistet werden durch einen geeigneten Maestro, also was auch immer das heißt. Die Bezahlung geschieht durch die Gemeinden bzw. den Staat. Zu Lill wurde angemerkt, dass die Preußenbegeisterung leider nicht erforscht ist. Allora chiudo la seduta, ringrazio tutti i partecipanti, in particolare coloro che sono intervenuti, i nostri traduttori sono dimostrati all'altezza della situazione e ci ritroviamo domani mattina alle 9 se non sbaglio. Puntuali? 9 e un quarto, dice il professor Lill. 9 e un quarto. Ci ritroviamo a cena. Molto bene, è stato molto divertente.